Questo seminario avevamo iniziato a farlo a UNIT un paio di anni fa, l'abbiamo ripreso anche a Connessioni Caotiche ed è un progetto che sta andando avanti e parte tutto da un paio di premesse. La privacy è ancora un problema attuale. Quando il movimento degli Hack Lab è nato intorno agli anni 2000, uno dei primi motivi di interesse era la difesa della privacy. Ed era la difesa della privacy sui computer, sui propri computer. Iniziava a esserci internet, si iniziava a navigare, era importante in un certo senso proteggersi. Sono passati tanti anni. Ha ancora senso parlare di privacy? Come è cambiato il termine privacy, il valore del problema della privacy e come è cambiato in funzione del fatto che adesso ci sono gli smartphone? Un dato: nel quarto trimestre del 2017 sono stati spediti nel mondo 70 milioni di computer. Nello stesso periodo sono stati spediti nel mondo 1.400 milioni di cellulari, di smartphone. Questo significa che per ogni computer che c'è nel mondo ci sono 20 smartphone. Se si mette insieme poi con il fatto che ormai dal 2015 la navigazione internet, e in particolare quella web, è più numerosa sia in termini di utenti che in termini di dati da un device mobile rispetto che a un computer, si capisce che adesso la privacy è un problema sui propri cellulari. Nelle generazioni attuali, quelli che hanno 18 anni adesso, quindi i nati dopo il 2000, praticamente il 90% della loro navigazione lo fanno soltanto sul cellulare e molto probabilmente non hanno neanche un computer. Quindi ormai, se vogliamo parlare della privacy come un problema, bisogna parlarlo declinato sugli smartphone. Che cos'è Privacy Matter e come si pone rispetto al problema della privacy? Allora, per scelta si è voluto iniziare dicendo: non voglio, lo stanno facendo altri, lo fanno meglio, voglio accennare sia al problema della privacy, ma non voglio sensibilizzare sul problema della privacy. Perché? Perché mi voglio concentrare, e il progetto Privacy Matter si concentra su questo, partendo dall'ipotesi che le persone che si approcciano a questo progetto hanno chiaro questo problema e quindi vogliono proteggere la propria privacy sui cellulari. Difendere la privacy sui cellulari è un procedimento molto più faticoso rispetto a un computer. Allora, parliamo dei dati. Parliamo di come è cambiata la privacy dall'utilizzo sui computer all'utilizzo sui cellulari. E soprattutto che valore hanno preso i nostri dati. Allora, non lo vedete, ma sono tre link a tre notizie, a tre dati. Il primo, i dati personali sono controvalore per i servizi che usiamo, si rifà a una notizia che è uscita nel 2015-2016 ed è il fatto che l'IBM verrà a fare un centro di ricerca nell'area Ex Expo di Milano, investendo un centinaio di milioni di euro a fronte di un finanziamento statale di 40 milioni di euro. I restanti 60 milioni, da dove arrivano? Arrivano dal fatto che IBM ha stabilito una partnership con la regione Lombardia, per cui quando inizieranno a fare queste ricerche sanitarie avranno totale accesso a tutti i dati anonimizzati sanitari della regione Lombardia. Quindi i dati sanitari privati, depurati dalle parole, dall'individuo, ma comunque dati sensibili di privacy, verranno dati in accesso a IBM. Quanto paga IBM questa cosa? 60 milioni di euro. Questo ci può aiutare a capire un po' qual è la cifra che può avere la nostra privacy. Difendere i propri dati è sempre più faticoso. È un articolo che fa vedere come le aziende, all'inizio di internet, per le aziende era faticoso, era un obbligo stancante e non economicamente conveniente tenere i nostri dati. Questo all'inizio di internet. Poi magicamente a un certo punto, apriti cielo, a un certo punto hanno iniziato a occuparsene in maniera molto più proficua e molto più vantaggiosa per loro stessi. Ci sono una marea di notizie, Cambridge Analytica piuttosto che altri, che hanno fatto vedere proprio questo passaggio, come per le aziende una volta era un inutile occupare spazio di memoria i nostri dati e a un certo punto è diventato valore. L'ultima cosa è: in che senso è diventato valore e perché è diventato valore? Quel link, problema, fa riferimento a un esperimento che è stato fatto su 600.000 dati di Facebook su quello che chiamano emotività virale, sul fatto che se io in un certo modo riesco a convincere un certo nucleo di persone di una cosa, in questo caso l'esperimento era su uno stato emotivo, cioè io ti riesco a invogliare un certo stato emotivo, tu riuscirai a influenzare ad ampio spettro, ad ampio raggio, una grande quantità di gente verso quell'emotività. Quindi facevano vedere che influenzando poche migliaia di persone si riusciva a fare in modo che 600.000 persone iniziassero a pensarla in quella maniera. Questo lo possiamo vedere tuttora attualizzato nelle elezioni, nella politica. Molto della guerra fredda che c'è adesso tra gli Stati si fa su questo, tra parentesi. Quindi questo era per dire che il problema non era stato assolutamente risolto. È cambiato forma, ha cambiato anche misure. Un ultimo dettaglio. Come viene percepito questo problema? Questo problema non viene, per la stragrande maggioranza delle persone, non percepito. Questa notizia, un attimo per alleggerire un po' l'umore, parla del fatto che un'azienda che produceva sex toys avesse un collegamento, i suoi oggetti erano smart, quindi tu ci potevi collegare col cellulare, ma loro a loro volta si collegavano su internet e rilasciavano i tuoi dati biometrici all'azienda. E il fatto che tu ti metti in parti intime un oggetto e non ti poni neanche il problema del fatto che questo oggetto si collega a internet fa percepire quant'è la percezione del problema, cioè, e questo lo notiamo, che ne so, il fatto che adesso i cellulari iniziano a sbloccarsi facendoti la scansione del volto e che questo sia percepito dalla stragrande maggioranza della gente come una cosa stupenda fa capire come la gente non inizia a vedere questo problema. Sui device mobili tutto questo discorso si amplifica. Perché? Ormai la navigazione, come dicevo prima, si è tutta spostata sui cellulari. E in più, gli smartphone sono dotati di molti device al suo interno, la geolocalizzazione, i dati biometrici, perché adesso li colleghiamo pure a bracciali che ci tengono tracciati l'andamento cardiaco, la geolocalizzazione delle fotografie, il fatto che c'è una telecamera, c'è un microfono, ci posso parlare, raccolgono molti più dati di un computer. Il computer io posso lasciarlo da qualche parte, il cellulare viene con me, è spento, non lo sto utilizzando, lui sta tenendo traccia di dove sto andando. Lo sposto, mi accelero, una cosa che magari avete notato, se io uso Google Map e supero una certa velocità, Google Map mi dice attenzione, stai andando troppo veloce in questa zona. È molto divertente che ad esempio Pokémon Go, che era un giochino che si giocava sugli smartphone per andare in giro a prendere i Pokémon, se tu superavi una certa velocità ti diceva no, stai imbrogliando. Loro adesso, per loro intendo le applicazioni, hanno accesso a molte più informazioni rispetto a prima. Rispetto a prima l'unica cosa che potevano sapere era il mio IP e dove stavo andando come navigazione. Adesso sanno dove fisicamente sono, le ultime fotografie che ho fatto, le ultime persone che ho contattato. Perché la privacy sui cellulari non è percepito come un problema? Perché quello che ci viene offerto è comodo. A fronte di un cedere spazi nella nostra privacy ai servizi offerti dagli smartphone, stiamo ottenendo servizi che ci rendono la vita facile. Ai tempi in cui c'era la lotta Windows-Linux, tu potevi dire Windows fa cagare, Linux è meglio. Adesso è difficile dire che i servizi di Google fanno cagare, perché non è vero. Sono servizi estremamente utili, estremamente comodi, ci rendono la vita facile. E a fronte di questa facilità, noi cediamo liberamente, in maniera un po' indotta forse anche, no, la nostra privacy. Quindi è di sicuro difficile superare questa cosa. Vi faccio un esempio. Allora, io da quando ho iniziato Privacy Matter ho utilizzato il cellulare in determinate maniere, in determinati modi, ho iniziato anche a utilizzarlo, poi vediamo in vari modi. A un certo punto, per motivi personali, questo Natale ho dovuto ricollegarlo a Google e ho dovuto riniziare a ricedere un po' della mia privacy. Per un semplice motivo di frustrazione e di velocità che dovevo risolvere alcune cose in un determinato momento e non avevo tempo di rimanere coerente con me stesso. Tornare indietro è difficile, come per un ex alcolista dopo aver provato di nuovo l'ebbrezza dell'alcol, smettere. Quindi è indubbio che questa comodità inebriante, non ci possiamo nascondere dietro un dito, se no non sarebbero 1.500.000.000 di oggetti venduti per il mondo. No, volevo tornare un attimo sulla questione comodità. Sì. Mi piacerebbe sapere cosa è successo a te, però avevamo a un certo punto evidenziato come l'uso sia dei social sia in generale delle SaaS, cioè dei servizi su internet, siano particolarmente utili nei momenti di crisi. Se io sto bene, ho una rete amichevole molto solida, ho un lavoro, una casa, eccetera, eccetera, probabilmente posso benissimo fare a meno sia di Facebook che di Google. Ma in un momento di emergenza o in un momento di crisi, ecco che ricorrerò facilmente a questi sistemi, i quali hanno la caratteristica di essere appiccicaticci, dunque è un po' difficile staccarvene se dopo essersi collegati. Personalmente, per esempio, posso ricordare che ho cominciato a usare Google in un momento di crisi, cioè mi è capitato a un certo momento di essere all'estero, di perdere la casa e di cominciare a dormire sul divano di amici. Ecco che in quelle condizioni fare a meno di Google era un po' difficile, perché avevo bisogno magari di avere sincronizzati 4 appunti su un calendario e di farlo in maniera, il computer mio a casa sul quale facevo self-hosting non c'era più, eccetera, eccetera. Qual è stata la tua situazione di crisi? La mia non è stata una situazione di crisi, è stato che ho organizzato un viaggio con la mia famiglia. Normalmente cosa facevo tanto tempo fa, ormai perché è quasi preistoria? Stampavo i biglietti, facevo il check-in online e stampavo il biglietto. Questa cosa non è più fattibile. Se noi facciamo un viaggio, andata e ritorno, che occupa una settimana, io posso stampare il biglietto 24 ore prima di prendere il volo. Quindi sarei dovuto andare lì e poi, dove ero, avrei dovuto aspettare 24 ore prima del ritorno e cercare un posto per stampare il biglietto. 24 ore prima mi è venuto un po' la strizza e mi sono detto, vabbè, accantoniamo un attimo la coerenza, mi installo la app dell'azienda aerea in modo che posso fare il check-in online. L'app dell'azienda aerea è disponibile soltanto sul Play Store. Il Play Store funziona soltanto se ci dai di nuovo i tuoi dati. Io gli ho dato i dati e siamo stati tutti contenti. Adesso tornare indietro è un altro percorso. Potrei anche, mi viene in mente che i social, in particolare quello monopolista, hanno cominciato a attribuire l'identità di una persona, come del resto sta facendo anche il numero telefonico. Perché il numero viene ormai usato come identificativo, per esempio, da una banca. La banca non ve l'avrà neanche comunicato, ma vi ha detto semplicemente d'ora in poi, quando fai una transazione, ti mando un messaggino sul telefono, me lo devi confermare. Dunque il telefono, quel numero diventa un identificativo prezioso. Dovrò riscendere a compromessi, dovrò riaffrontare la questione quando a breve la mia banca mi dirà che non funziona più la chiavetta che mi genera il numero per accedere al conto, ma dovrò installare l'app della banca, dal Play Store a cui è collegato il mio account. E non gli potrei dire io non ho il Play Store. Io sarà divertente andare in banca e spiegare che io, ad esempio, non ho uno smartphone. Voglio vedere che cosa mi dicono. Magari me ne allungano uno. Te lo diamo noi direttamente, usa il nostro. Poi ci sarà anche la questione, a breve sarà anche un altro discorso interessante da affrontare sull'identità digitale statale, sullo SPID, che sarà collegato probabilmente, cioè che tra parentesi è già dato in gestione a privati. Privacy Matter, in maniera scherzosa, si pone come percorso ascetico, cioè partendo dall'ipotesi che è comodo e che è facile la parte opposta, dall'altra parte hai difficoltà e frustrazione, quindi a livello di disciplina bisogna essere preparati, perché se si decide che la privacy sui propri cellulari è importante, bisogna immaginarsi che il percorso da fare per difenderla è molto più faticoso che rispetto al computer. Allora, come ci siamo immaginati noi un percorso di difesa della privacy sui cellulari? Ce lo siamo immaginati diviso in 5 passi. Ogni passo è rinuncio a qualcosa a fronte di qualcos'altro, ed è ovviamente ogni passo è sempre più difficile, tipo i livelli di un videogame, ecco. Allora, il primo passo è lo stato attuale delle cose. Io prendo un telefono, lo accendo, non mi pongo nessun problema, sono libero e felice e chi se ne frega. Questo è proprio nothing to hide, no? Praticamente in quel momento accendi il telefono e cominci a rispondere alle domande che ti fa il telefono. Il telefono dice: vuoi tu? Sì. Sì. Sì. Vuoi fare? Sì. Sì. Sì. È meglio che rispondi sempre sì, perché se cominci a dire mai io vorrei, poi non è detto che tutto funzioni. Siccome in quel momento deve funzionare tutto, vero? E allora sì. Ma è già un account Google, sì. Allora vuoi che ti rimetto tutto a posto come era prima? Sì, grazie. Okay. Wow. Sul sì automatico è divertente che c'è stato un gruppo di ricercatori in Inghilterra che ha fatto una wifi, ha iniziato a mettere questa wifi libera in giro per Londra, che ti permetteva di navigare. Quando tu ci collegavi c'era un piccolo disclaimer che ti diceva che l'utilizzo della wifi era gratuito a patto che tu cedessi il primogenito. E la gente sì. Quindi, ecco, mettiamola così, iniziare a leggere può essere il primo passo faticoso, cioè iniziamo a leggere i messaggi che ci arrivano. Il primo passo, che secondo me è già un ottimo passo, è: io mi fido di Google. Ah, scusate, tutto il discorso che stiamo facendo lo facciamo soltanto per smartphone Android, perché Windows Mobile è praticamente ormai una chimera che sta morendo. Il mondo Apple è chiuso a livello hardware, e se tu ti compri un Apple, secondo me non te lo poni proprio il problema della privacy, anche perché l'unico modo per provare a difendere la propria privacy su Apple è farne un jailbreak pesante, cioè e lavorarci veramente in maniera... Quindi magari il gioco non vale neanche la candela, perché rischi di trasformare il tuo smartphone da 1000 euro in una mattonella. Quindi diciamo che tutto il discorso che stiamo affrontando purtroppo si può, e noi lo immaginiamo, solo su Android. E quindi il nostro interlocutore principale è Google. Parlando di Apple, usare un iPhone significa delegare a Apple la tutela della privacy. Apple è in grado di farlo in quanto controlla sia l'hardware. Apple controlla l'hardware, controlla anche il software, ed è in grado di fornire quello che viene chiamato un walled garden, cioè un giardinetto abbastanza chiuso per essere moderatamente tutelato, ma lo tutelano loro. Ricorderete che qualche tempo fa c'è stato un piccolo casino con l'FBI che voleva le chiavi per sbloccare un telefono. La Apple ha usato in maniera diciamo propagandistica questo evento per raccontare che non hanno dato le chiavi all'FBI in quell'evento, eccetera eccetera. C'è da dire che a priori sappiamo che dal 2001, cioè da quando è stato fatto il Patriot Act, e non è stato mai dismesso, è stato rinnovato durante la presidenza di Obama, qualunque comunicazione che oltrepassi il confine americano è soggetta a interesse nazionale e dunque può essere legalmente intercettata senza bisogno tanto di chiederlo, e dunque qualunque azienda americana ha un obbligo di tipo militare nel fornire all'entità quando gliele chiedono i loro dati. Poi magari l'FBI è federale, l'NSA invece avrebbe potuto di più, però sono finezze. Quindi tutto il discorso che stiamo facendo purtroppo lo possiamo immaginare soltanto declinato su smartphone Android. Allora, il primo passo è: mi fido di Google, vi faccio un account Google, probabilmente se avete un Android ce l'avete, bene o male. Quello che faccio però è iniziare ad accedere alla dashboard delle attività del mio account Google. In maniera molto spavalda vi faccio vedere come è fatta la dashboard. Queste sono tutte le mie attività, non guardate, su Google. Noi dobbiamo arrivare qui, questo è il mio cellulare. Fino a poco tempo fa non c'era, e se voi vedete l'ho collegato proprio per Natale. Cioè, prima non c'era un dispositivo Google collegato al mio account, proprio per quello che vi ho detto prima l'ho dovuto fare, e quindi adesso è lì. Da lì e dalla pagina myactivity.google.com potete settare, e vi invito a farlo, tutti i settaggi sulla privacy che Google ci offre, che di default sono tutti aperti. Cosa intendo per aperto? Intendo che nei settaggi di privacy noi possiamo chiedere a Google di non raccogliere determinati dati, la cronologia dei movimenti, la cronologia delle ricerche, la cronologia degli spostamenti, qualsiasi cosa. Tutte queste cronologie vengono di base lasciate aperte, cioè lasciate settate, per fare in modo che il nostro account di Google si ricordi tutto quello che facciamo. Tra parentesi, è importante, ad esempio, controllare tutte e, se ci tenete, settarle tutte, perché se ho disabilito la cronologia degli spostamenti, Google è comunque in grado di tenere traccia dei miei spostamenti tramite la cronologia di ricerca, perché nella cronologia di ricerca viene salvato anche il posto fisico in cui ho fatto quella ricerca. Quindi andando su myactivity.google.com è una pagina, io la ritengo molto confusionaria, per assurdo, sempre facciamo un po' di dietrologia, mentre su altre cose Google è all'avanguardia per quanto riguarda usabilità e navigabilità delle funzioni, su questa pagina è un dedalo infinito di link che ti portano a pagine, che ti portano ad altri link, che ti portano ad altre pagine. E tu hai la sensazione palpabile che, che ci sarà sempre un settaggio da qualche parte lasciato lì. Comunque, questo è un primo passo. Io vi invito, al di là del fatto che voi vogliate o no sganciarvi da Google, io vi invito caldamente a fare un settaggio di questo tipo. Ovviamente io ho disattivato tutto, vi invito a farlo, ecco. Potrebbero comparire altre cose. Se ad esempio da adesso in poi magari Google riesce a percepire la mia aurea e ti crea la cronologia della tua aurea, è ovvio che sarà dato per scontato che la cronologia è attivata. Quindi il primo passo è questo qua. Io vi invito, al di là del fatto che voi siate disposti o no a fare un determinato percorso, io vi invito almeno a fare questo. Sul come settare, abbiamo cercato anche di raccontarlo in maniera un po' più dettagliata, pratica, anche sul libretto, dove c'è il contributo di Putro, che è qui da qualche parte, perché so che se vuole venire a dirci delle cose, benvenuto. Un piccolo dettaglio aggiuntivo, che oltre a disattivare i flag, la cosa più bella della pagina My Activity di Google è che vi fa vedere tutto quello che Google ha salvato finora. Cioè voi vi potete vedere la vostra cronistoria delle posizioni, di dove siete stati negli ultimi anni, se avete sempre lasciato il cellulare col GPS attivato o anche senza GPS attivato, perché lui comunque fa la ricerca tramite la rete a cui siete collegati. E vi dà la possibilità di cancellare tutti questi dati. Quindi io la prima volta che mi sono accorto che esisteva questa pagina sono andato lì e, pur non usando quasi mai l'account Google, mi sono reso conto che ogni volta che ho fatto una ricerca era riportato cosa avevo cercato. Ogni volta che ero andato da qualche parte col GPS attivato c'era scritto dove ero stato, e quindi la prima cosa che ho fatto è stato di cancellare tutti questi dati, perché c'è proprio il pulsantino scaricali se vuoi tenerli o cancellali. E la lista è veramente impressionante. Quando entrate la prima volta fa paura. C'è un dettaglio per trasmettervi questa paura. Io mi sono scaricato anche quei dati. Tra quei dati c'è la cache del cambio dell'avatar di tutti i vostri contatti su Gmail. Significa che voi avete la possibilità di avere per ogni persona tutti gli avatar che ha avuto, tutte le frasi che ha messo. Loro hanno la storia dei nostri amici. Passo successivo. Uso Google, setto la privacy come prima, ma inizio a usare anche app alternative. Perché? Perché un discorso è Google, un discorso sono le app di Google, e un discorso sono le altre app. Le altre aziende, quelle che offrono app sul Play Store, sono per la stragrande maggioranza sganciate da Google, ma hanno lo stesso concetto di valore della nostra privacy, e a loro volta fanno lo stesso gioco per loro fine. Vi faccio un esempio. Quando noi installiamo un'app dal Play Store, che è un'app tipo, che ne so, il giochino per il bambino per colorare, e ci chiede l'accesso ai contatti, questa cosa ci dovrebbe chiedere: perché tu, app per disegnare, mi chiedi l'accesso ai contatti? Una volta archiviato la fiducia su Google, la fiducia verso altri è tutt'altra faccenda. Quindi iniziamo a sganciarci da altre app. Iniziamo a cercare un'app alternativa per la mail, anche un'app alternativa di messaggistica. Facebook ha appena fatto il comunicato per cui unificheranno i dati di Instagram, WhatsApp e Messenger. WeChat, che è l'app di messaggistica della Cina, è il più grande strumento di controllo che il governo cinese ha sul proprio popolo. Quindi iniziamo a trovare vie alternative alle app che utilizziamo di solito. Un'app alternativa di messaggistica, un'app alternativa di note, e iniziamo a valutare l'ipotesi di usare F-Droid. F-Droid è un repository di applicazioni per Android open source. Quindi è un repository di applicazioni che segue il principio dell'open source, di cui io posso avere accesso al codice e di cui in parte mi posso anche fidare. FDroid ovviamente non è presente su Play Store, perché Play Store non vuole, Google non vuole che iniziamo a utilizzare app di questo tipo. Uno dei maggiori centri di potere che Google ha, e ce l'ha anche Apple, è quello che viene chiamato ecosistema. Cioè, se io ho il controllo della filiera che mi distribuisce le applicazioni sugli smartphone, se tu per accedere alla mia utenza devi passare da me, questo mi mette in una posizione di potere. Se io invece posso installare e utilizzare applicazioni open source e magari al di fuori del circuito del Play Store, questo mi toglie potere. Quindi FDroid non è presente sul Play Store. Vi dovete fidare, dovete andare a scaricarlo, dovete abilitare una delle cose che può suonare più brutta, che è permettere l'installazione di applicazioni di cui non si conosce la sorgente, ma in realtà FDroid fornisce i sorgenti e dà anche l'MD5 per fare in modo che tu sei abbastanza sicuro, anzi sei sicuro, che l'FDroid che ti sta installando è l'FDroid che vuoi, e ci dà la possibilità di accedere a un mondo parallelo di altre applicazioni. Sul libretto trovate l'elenco di tutte queste applicazioni. L'MD5 è un codice, una firma digitale, che garantisce il fatto che il pacchetto che ti sei copiato sul tuo cellulare sia quello che il sito di FDroid distribuisce ufficialmente, in modo che tu sai che il pacchetto che ti stai installando sul cellulare è quello che FDroid vuole che tu abbia. Perché in effetti, non ci nascondiamo dietro un dito, nel momento in cui tu accetti di installare altre applicazioni, si ritorna a io sono responsabile di quello che finisce sul mio cellulare. Come quando io mi installo qualcosa sul mio computer. L'obiettivo di tutto il discorso è riuscire finalmente ad arrivare a usare lo smartphone come si usa un computer. Il sottotitolo del workshop di oggi è come entrare in possesso del proprio cellulare dopo averlo comprato. Perché io, va bene, mi fido, installo quello che mi dici tu, ma non posso installare altre cose, a meno che non inizio a prendermi la responsabilità e quindi la fatica di gestire il mio device, il mio cellulare, il mio oggetto. E quindi io accetto l'installazione di applicazioni che non vengono dal Play Store e io accetto di installarmi FDroid e i pacchetti che mi vengono offerti da FDroid. FDroid è open source, da software open source, ma ci avverte anche del fatto che se installiamo delle applicazioni, che quelle applicazioni chiederanno l'accesso a determinati dati. E ce lo chiede prima, ci avverte prima e non dopo. Non è che ci fa scaricare e poi sì, ci avverte prima se stiamo installando qualcosa che vorrà leggere i nostri dati. Ad esempio, un'applicazione che vi suggerisco, per la posta, K9 Mail è un'ottima alternativa a Gmail, oppure anche lo stesso NewPipe è una bellissima applicazione che ci dà la possibilità di vedere i video di YouTube e fa una cosa che secondo me è una liberazione, il suonare video di YouTube in sottofondo. Quindi io posso chiudere NewPipe e posso tornare a utilizzare il mio cellulare normalmente, che questo secondo me è una future della Madonna, che ovviamente YouTube non vuole. Perché tu devi guardare quando io poi passerò la reclam, no? Ok, terzo punto. Non mi fido più di Google e uso Android senza collegare un utente Gmail. Questo è il primo passo veramente difficile. Cioè, io prendo il cellulare, ne faccio il reset industriale, che non so se sapete che cos'è, significa che nelle impostazioni chiedo al cellulare di cancellare tutto quello che è presente sul device e di reinstallare la versione che c'era nel cellulare quando l'ho comprato. Poi si potrebbe discutere anche su cosa c'è nella versione del sistema operativo quando l'ho comprato, però facciamo una cosa alla volta. Quindi resetto totalmente il mio cellulare si accende e mi chiede vuoi collegare un utente Gmail, un utente Google, e gli dico no. Da quel momento in poi smette la fase di preinstallazione e si accende il cellulare, solo che a tutti gli effetti il cellulare è un citofono, perché lo puoi usare per fare quello che deve fare in teoria, cioè telefonare e basta. Quindi poi inizia a essere difficile, ad esempio, a rinunciare a delle applicazioni di Google. Due su tutte, Google Map, che alla fine è comodo, e Gmail. Gmail, come ricordava Dan prima, Gmail è quel prodotto che ha segnato il vero cambiamento nella strategia commerciale di Google, che a un certo punto ha deciso: non ti offro una ricerca anonima, ti do la possibilità a te, individuo, di avere un account di posta da me. Io ritengo Gmail il miglior prodotto dopo il motore di ricerca che Google abbia mai realizzato. E forse il motivo per cui abbiamo ancora oggi le mail. Immagino che ormai il traffico email sia praticamente solo Gmail. Perché? Perché Gmail è chi lo usa, io lo uso, ho ceduto al lato oscuro per motivi anche di lavoro. Gmail ci offre uno strumento migliore della mail. Quindi diciamo che Gmail è il vero scotto, è la vera prima cosa a cui dobbiamo rinunciare per passare a questo punto. Qual è la differenza tra una mail normale, che poi però apre il discorso per un altro progetto, è il fatto che Gmail, prima di tanti altri, ci ha offerto il cloud, cioè ci ha offerto la possibilità che sul computer di qualcun altro c'era tutto quello che avevamo sulla posta elettronica. Io posso recuperare un documento speditomi 10 anni fa in 15 secondi con Gmail. Questa cosa con l'email non si può fare, a meno che non si inizi a fare self-hosting, che significa capire anche che il cloud, come dice qualcuno, è il computer di un altro. Non è una magica nuvoletta che è mia, no, è il computer fisico di qualcun altro. Qua inizia anche a porsi il problema amletico di dove metto i miei dati, dove metto i miei file, dove metto il mio codice fiscale scannerizzato quando devo spedirlo al comune. Queste cose sono la vita di tutti i giorni, cioè il lavoro quotidiano. Queste cose adesso le demandiamo a Google o a chi per esso, ma dovremmo anche iniziare a porci come obiettivo il mantenercene noi. Anche perché, tra parentesi, abbiamo talmente tanta banda a disposizione. Gli smartphone sono dei computer che la NASA ci mandava i satelliti in orbita e dovremmo iniziare anche a utilizzarli per fare self-hosting, cioè per pensare ai nostri dati. Questo è tutto un altro discorso. Diciamo che comunque, per rimanere su Privacy Matter, il vero scotto adesso è abbandonare Gmail e Google Map. Abbandono queste due applicazioni, non mi interessa più niente di Google, inizio a utilizzare soltanto software alternativo, di cui sono fiducioso, di cui accetto il compromesso e di cui so che sarà il più possibile rispettoso della mia privacy. La domanda è: una volta che scarico F-Droid, come lo installo? Allora, vado sul sito di F-Droid. Con lo smartphone. Trovo il link download APK. APK è l'estensione delle applicazioni, del file delle applicazioni per Android. Trovo il file .apk di F-Droid, lo scarico, tento di aprirlo. Nel tentare di aprirlo, lo smartphone mi chiederà: attenzione, stai tentando di installare un software di cui è sconosciuta la sorgente. Probabilmente devi andare prima nelle impostazioni. Ma ci porta lui. Ti permetto di installare anche applicativi che non siano di provenienza ufficiale Google. Dopodiché, una volta che accetto e si installa, mi compare la magica iconcina e tappando su F-Droid accedo a un altro Play Store, che è lo store, che non è neanche uno store, loro ci tengono a chiamarsi repository. È un repository di applicazioni gratuite e libere che mi posso installare. Quando abbiamo iniziato a buttare giù i punti, diciamo che questo era la linea di demarcazione tra: posso fare tutto utilizzando il mio smartphone da utente semplice, rispetto a devo iniziare ad avere un approccio più tecnico. Quindi io mi immaginavo, ci immaginavamo che questo fosse l'ultimo livello e poi dovevi mettere per forza le mani sul sistema. Ultimamente mi sono reso conto che non è così. Perché? Quando noi, avete presente benissimo, quando noi compriamo un cellulare, uno su tutti, compriamo un cellulare della Samsung, oltre ad Android, oltre alle applicazioni di Android, c'è quello che viene chiamato Bluetooth, una marea di applicazioni che io non ho chiesto, che sono lì, non le posso disinstallare e probabilmente anche se le disattivo funzionano magicamente lo stesso. Questo è un problema. E io allora avevo iniziato a studiare la possibilità di provare a disabilitare tutte e di fidarmi. Mi ero accorto, ad esempio, che tra le varie applicazioni di Android, di Google, che posso disattivare, c'è anche un'applicazione particolare, molto importante, che si chiama Play Service. Il Play Service di Android è il fulcro di tutti i servizi di Google. È quello che trasmette il mio identificativo come utente di Google. Disattivo tutto, disattivo anche il Play Service. Inizio a fare un po' di esperimenti, perché una delle applicazioni più difficili da sostituire è Google Map. Alcuni, come navigatore, cioè io devo andare nel posto X, qual è un'applicazione valida? Molti suggeriscono Osmand. Osmand è un'applicazione che troviamo su F-Droid, che utilizza le OpenStreetMap, che è un progetto libero, aperto, di un'organizzazione libera, che permette la mappatura, come la sta facendo Google, ma in maniera svincolata da aziende. E Osmand è l'applicativo disponibile su F-Droid che si appoggia a OpenStreetMap e che ci fornisce navigazione. È molto utile perché, ad esempio, ci permette, cosa che Google Map non permette, il download delle mappe, in modo che se io devo andare da qualche parte dove non ho connettività ci posso arrivare utilizzando Osmand. Il cellulare su cui io sto facendo, il cellulare che utilizzo normalmente, sta avendo dei grossi problemi a rapportarsi con Osmand, per cui ad esempio non riesco a fare in modo che Osmand prenda bene la geolocalizzazione che offre il mio cellulare. E allora ho fatto degli esperimenti. Uno su tutti è: non ho l'account Google sul mio cellulare, ho disabilitato tutto, Play Service e quant'altro, utilizzo un browser alternativo che non è Chrome, e ce ne sono molti, uno su tutti molto utile e che trovate anch'esso su F-Droid, è il browser derivato dal progetto DuckDuckGo. DuckDuckGo è un motore di ricerca che tenta di anonimizzarci rispetto a Google. Il loro browser è un'ottima alternativa, validissima, a Chrome. Quindi, sempre per tornare al discorso delle applicazioni alternative, mi installo DuckDuckGo, il browser di DuckDuckGo, e vado sul sito di Google Map, facendo finta che il mio cellulare sia un computer, e vedo che funziona. Figata, ho svoltato, mi dico perfetto, utilizzo questa configurazione, non mi appoggio a Osmand, utilizzo Google Map passando DuckDuckGo e navigo. Bene, inizio a fare un po' di esperimenti, poi mi sorge il dubbio che quando io vado sul sito di Google Map l'interfaccia cambia e diventa molto più app friendly, diventa un'app ibrida, si chiama, diventa un'app, cioè da essere un sito internet si mostra come un'app. Allora mi sorge il dubbio che Google Map riesca a far partire la sua versione app quando viene richiesto da uno smartphone. Per sicurezza allora mi installo un firewall. Un firewall è un programma che si può installare sul computer, ma si può installare anche su smartphone, che blocca le connessioni verso e da internet sul mio device. Installando un firewall, noto che anche se ho disabilitato il Play Service, quando vado sul sito di Google Maps con un browser che non è Chrome, con uno smartphone che non è collegato a nessun account di Google, il Play Service si riattiva. Il firewall blocca questa connessione e Google Map smette di funzionare. Quindi questo ci fa capire che quest'ultimo punto non è del tutto praticabile soltanto con le impostazioni. Ci sarà sempre qualcosa di attivo sul nostro cellulare che collega il nostro sistema operativo Android a mamma Google, e non ci si scappa, a meno che tu non ci metti un firewall. Cioè tu non ci metti, tu non inizi a controllare effettivamente che cosa arriva sul tuo cellulare e che cosa parte dal tuo cellulare. Per installare un firewall purtroppo bisogna diventare root. Abbiamo la news. Allora, questo era vero fino a poco tempo fa, adesso c'è una fantastica applicazione che si chiama NetGuard che crea una VPN interna, per cui lui ti manda nella sua VPN e poi ti manda fuori. Non ha bisogno dei permessi di root per attivare la VPN e quindi tu ti trovi la lista di tutti i processi a cui puoi dire puoi navigare, non puoi navigare, puoi navigare solo sul wifi, puoi navigare solo sulla rete dati, nessuno dei due, e quindi così si risolve senza più essere root. E c'è su F-Droid e su Google. Nella versione che c'è su Google però è più limitata, nella versione che c'è anche su F-Droid ti permette anche di fare ad blocking, cioè di filtrare tutte le finestrelle pubblicitarie. Nella versione che c'è su Google no, perché Google gli ha detto no. Strano. Possiamo quindi stabilire che questo livello rimane ancora un livello fattibile di semplici impostazioni che io faccio con le mie ditina su installa un'applicazione, installa questo, installa quest'altro. Arrivati a questo punto, se voglio andare avanti, l'ultimo passo è senza Google sul serio. Perché la questione è questa. Questo esempio che vi ho fatto vedere adesso ci fa capire che non mi posso fidare al 100% del sistema operativo che mi è arrivato col mio telefono. I sistemi Samsung, ma non solo, anche molti dei sistemi cinesi installano anche malware nel proprio sistema operativo. Cioè, anche software che è stato messo lì per raccogliere dati e trasmetterli ad altre aziende. Quindi io, va bene, posso fare anche il reset industriale del mio cellulare, ma sarà sempre un reset a una versione di un software che, per quello che mi interessa, ha dei problemi. Quindi il vero passo adesso, diciamo che arrivati a questo punto si è arrivati in cima alla scalata, il vero passo è provo a installare un sistema alternativo a Google sul mio cellulare. Arrivati a questo punto si ha una forte dose di paranoia. Allora, ipotizzando di non avere un account di Google, il fatto per esempio che spiegavi molto bene prima di utilizzare Google Maps attiva il Play Service, cioè Google Play Service, che problema pone dal momento che non me lo può collegare col mio account? Non sarebbe accettabile? È la domanda. Secondo, non ho l'account di Google, però posso usare tutte le applicazioni dei Play Store attraverso dei market alternativi, per esempio Yelp, per esempio Aurora, che usano un meccanismo attraverso il quale loro stessi si qualificano verso i Play Store e ti consentono di scaricare tutte le app che sono presenti su Play Store senza avere appunto l'account di Google. Grazie. La prima domanda è che in realtà Google te lo dà un ID. Nel momento in cui io dico collegami il tuo account di Google e gli dico di no, Google sotto sotto dice vabbè, io te lo creo. Poi il giorno che tu ci colleghi il tuo account di Gmail faccio 1+1. Ma prima o poi lo farai, oppure non lo farai, ma tu puoi rimanere quella mosca bianca, al posto di essere paolorossi@gmail.com sarà il cellulare Samsung A724 il cui email è questo qui. Perché io ti posso comunque identificare. Rimani là. E poi magari per contorno io ti riesco anche a identificare. Se qualcuno ha il tuo numero nei contatti e mi ha dato la possibilità di accedere ai contatti, io posso collegare la tua persona, il tuo numero, a quel telefono. Io, se non ho te, vado per eliminazione, vado per il tuo contorno. A Google non interessa, cioè interessa ovviamente, ma può fare inizialmente a meno di avere esattamente il tuo account di Google o di spingerti ad avere un account di Google. Lui sa che c'è una persona che sta a Milano che ha acceso un cellulare Android del modello XYZ, il cui email è questo qua, e che a un certo punto della sua vita ha voluto andare su Play Service, su Google Maps, e ha voluto andare da Milano Conchetta a casa sua. al di là del fatto che io so chi sei, se ritaglio il tuo bordo, so chi sei. La seconda cosa è utilizzare Yelp e altri. Questo lo spiego poi anche nel livello successivo. La cosa migliore, se ci sono delle applicazioni a cui non potete fare a meno, la cosa migliore è ottenere la pick up da soli. Da soli significa che sul device di qualcuno o sul mio device, ad esempio dovrebbe poter funzionare anche con i simulatori, io posso, tramite un programma che si chiama ADB, estrarre da device mobili, da uno smartphone, gli APK di un'applicazione. Quindi la cosa migliore, ci sono dei progetti a riguardo, è io mi faccio un vecchio cellulare, ce l'ho a casa, gli creo un account Google da zero, inesistente, su un vecchio numero che non utilizzo più, lo lascio sempre lì, non gli metto nessuna SIM, collegato alla Wi-Fi, gli faccio scaricare le applicazioni che mi servono dal Play Store, le estrapolo con ADB e le metto sul cellulare che utilizzo. Questa è una procedura, lo so, ribadisco il concetto. Da adesso in poi sono solo problemi, sono solo fatiche. Se si arriva a questo punto bisogna scendere a compromessi con la fatica di... Quindi ci iniziamo a immaginare di installare un Android di cui io so la provenienza, che significa che Android di per sé è un progetto open source. La versione base di Android, il sistema operativo che fa funzionare uno smartphone, è open source, si può compilare da sola. Io posso scaricare i sorgenti di Android, compilare Android e installarlo sul mio cellulare. È una cosa assurda, io non l'ho fatto, c'è gente che l'ha fatto ed è ancora ricoverata, però c'è qualche pazzo che lo fa per noi. Quindi, sempre per il discorso della fiducia, io posso scegliere di utilizzare versioni di Android che sono state compilate da zero, su cui ad esempio non sono state installate le GApps, perché Android è open source, ma le applicazioni di Google non sono open source e sono un pacchetto staccato da Android. Noi non ce ne accorgiamo, ci sembra che siano tutto lo stesso grande blob, ma in realtà sono due mondi diversi. Uno è il sistema operativo, l'altro sono le applicazioni. Ci sono dei savi che hanno preso, scaricato la versione di Android senza le Google App, fatto versioni di Linux per molti device. La migliore distribuzione di questo tipo si chiama Lineage OS ed è la versione di Android realizzata partendo dai sorgenti per molti device. La Samsung è ampiamente supportata, Motorola è ampiamente supportata, i cellulari Google sono ampiamente supportati, che ci permette quindi, però da adesso in poi è fatica. La bellezza di Lineage OS è che lui ti dà il sistema operativo base. Se tu ti installi Lineage OS ci trovi la calcolatrice, il telefono, la rubrica, la telecamera, un browser e basta. Non ci trovi nient'altro. Tanta roba, sì. Il citofono, come si diceva prima. Quindi sei abbastanza sicuro, io sono sempre sull'abbastanza, però possiamo dire a questo punto molto sicuro, del fatto che su quel cellulare non c'è nessun tipo di servizio che tenta di collegare il mio cellulare a qualcosa. Però significa poi che devo reinstallare tutto io. Devo reinstallare FDroid, devo reinstallare un firewall, devo installare un browser migliore, devo fare tutto io da zero. Però arrivato a questo punto puoi essere sicuro con una buona percentuale che sei in possesso del device che hai comprato. Diciamo che a un certo punto Io sono arrivato a essere in totale possesso della mia macchina. Se sono in totale possesso della mia macchina, del mio cellulare, posso anche riconsiderare l'ipotesi di reinstallare le Google Apps, avendone il totale controllo, ad esempio con un firewall, in modo che se ad esempio ho bisogno di alcuni servizi di Google, e prima o poi dovremo iniziare a valutare l'ipotesi che alcuni servizi di Google saranno imprescindibili. Vuoi la macchinetta Enjoy? Esatto, la chiavetta della banca, per dirne un'altra. Io posso installare le Google App e tenerle in una bolla, basandomi sul mio firewall, che me le blocchi. Però c'è sempre un però, che come si diceva prima, in questo caso io sto installando software di cui non ho il controllo. Allora, qual è la soluzione? La soluzione è un progetto che è stato presentato a connessioni caotiche, ma che sta andando avanti, che si chiama MicroG. MicroG è praticamente il tentativo di sviluppare un'interfaccia verso i Google Service open source e il meno invasiva possibile. MicroG, tra parentesi, è un progetto anch'esso open source, ovviamente, che ultimamente ha avuto anche l'appoggio di Lineage OS. Lineage OS ha iniziato a dire: io non ti installo le Google App, ma per alcuni device io ti do la possibilità di avere le MicroG. Le MicroG quindi sono la possibilità di avere accesso open source di cui fidarsi ai servizi di Google, tra cui il Play Service di cui si diceva prima. Tra parentesi, una delle feature di MicroG è quello che viene chiamato lo spoofing dell'identità, cioè il fatto che MicroG nasconde ai Play Service la propria identità, cioè anche la come si diceva prima, l'identificazione del telefono, non dà nessun dato del telefono ai servizi di Google. Questo è il cammino. Arrivati a questo punto, tolto il fatto che già il quarto livello vi ha portato a una tale conoscenza dell'oggetto che da quel momento in poi siete in totale consapevolezza del vostro oggetto e ci potete fare quello che volete. E quindi a un certo punto superate anche il problema della privacy, perché siete in totale possesso del vostro mezzo. E quindi poi si riapre anche il discorso dell'open source, che è una cosa molto interessante e molto buona in questo caso. Che cellulare prendere? Molta gente mi dice a questo punto: va bene, ma io cosa faccio? Butto nel cesso il mio telefono? Ne compro un altro? Che cosa devo comprare? Allora, una cosa su cui io invito sempre molto è il fatto che non è proprio nelle mie corde, però a me da persona civile mi interessa anche la questione ecologica. È impossibile, secondo me, ad esempio, che si facciano intere battaglie contro l'olio di palma e sul fatto che questi telefoni abbiano dentro minerali rari che sono stati ottenuti da paesi in guerra e con il disastro ecologico che comporta estrarre minerali dalla terra, e stiamo parlando delle cifre di cui vi parlavo prima, 1,5 miliardi di cellulari. Io invito sempre come prima cosa a cercare di accedere a un cellulare usato. Tra parentesi, ce ne rendiamo conto utilizzando un cellulare normale dell'obsolescenza programmata, cioè del fatto che un cellulare dopo 2 o 3 anni, seguendo gli aggiornamenti e i servizi di Android o di Google, diventa inutilizzabile. Installando Lineage OS, installando un sistema operativo di cui io ho la possibilità di minimizzare la necessità di risorse e quindi le applicazioni, io ho la possibilità di utilizzare un telefono di 4-5 anni fa come un telefono di oggi, più o meno, se ci dovete giocare ai giochi in 3D magari no, però per accedere, navigare e fare quello che fate comunemente non c'è nessun problema, e potete usare benissimo uno smartphone molto vecchio su cui avete installato Lineage OS. Quindi come prima cosa, quello che consiglio sempre è riuscire ad accedere a un cellulare usato, su cui poi, a seconda del modello che ho, posso valutare fino a che livello mi posso spingere. Se riesco, magari potrò installargli una Lineage OS. Se riesco, magari ci riesco a installare una Lineage OS con MicroG. Se no, posso anche semplicemente arrivare a un terzo livello, cioè non ci collego niente, quindi non ci attivo niente. C'è un firewall che me lo alleggerisce e tento di mantenere il cellulare il più sgombro possibile. Una delle cose che suggerisco è cercare sempre quelli che si chiamano quelli che hanno l'Android Stock o Android One. Android è un sistema operativo open source utilizzato da Google, che ci mette sopra le Google App. Questo però non finisce la catena, perché poi la Samsung ne fa una sua versione, prende Android, le Google App, e sopra ci mette un confetto di software di Samsung e così via. La cosa migliore è riuscire ad accedere magari a un telefono per cui è prevista un Android Stock, cioè una versione di Android con solo Android e le Google App, in modo che almeno il bloatware non ce l'ho e con un buon firewall posso essere abbastanza sicuro che i miei dati non vengano trasmessi. La Xiaomi inizia a fare smartphone con Android Stock. Poi io vorrei evitare anche di fare pubblicità, però proprio conoscere il proprio nemico, mettiamola così. Quindi i Motorola, i device che produce direttamente Google, sono ottimi punti di partenza su cui immaginarsi di prendere un cellulare usato e con un po' di sforzo riuscire ad avere un cellulare abbastanza sicuro. Se non riusciamo a trovare un Android usato, quello che io propongo è sempre: immaginiamoci fino a dove voglio arrivare. Quindi se io voglio arrivare a un terzo livello buono, la cosa migliore è un Android Stock. Se io voglio arrivare a un quarto livello, cioè se io voglio arrivare un giorno a installarci il mio sistema operativo, allora ci conviene andare sul sito di Lineage OS e vedere l'elenco dei device per cui posso trovare un Android alternativo. Se io voglio MicroG, anche quello, ci sarà l'elenco dei device a cui è stato implementato MicroG. Cioè iniziamo a basare le nostre scelte di acquisto di un telefono su che cosa ci interessa e fino a che punto ci vogliamo spingere nella difesa della privacy. Questa è una linea guida, diciamo. Allora, per evitare di fare pubblicità, ma per poter comunque parlare in concreto dell'hardware, proviamo a indicare alcuni punti di cose che sono successe in passato. Dunque, per citarli senza fare pubblicità, però possiamo ricordare per esempio come nel 2011 la Palm chiuda e ceda tutti i suoi brevetti all'HP. La cosa potrebbe sembrare irrilevante, ma non lo è tanto, in quanto la Palm, che sono stati i primi a utilizzare i loro Palm, appunto, i loro Palmai, posseggono i brevetti su qualunque cosa che sia dell'utilizzo manuale dell'oggetto. E questo non è poca roba, perché ci sono stati momenti in cui si sono litigati persino se il doppio click qualcuno l'avesse copyrightato o meno, e se fosse legittimo utilizzarlo. Per fare un esempio, chi di voi avrà visto magari un cellulare Palm, uno degli ultimi prima che chiudesse, appunto era il 2011, avevano una caratteristica molto simpatica, cioè erano pensati per funzionare con una mano sola, non con due mani, e dunque per esempio utilizzavano la metafora del mazzo di carte. Perciò tu avevi le applicazioni dove se tu alzavi col pollice da sotto, queste si poppavano sopra e tu, come se distribuissi un mazzo di carte col pollice, le chiudevi o le switchavi da una all'altra. Comodissimo. Android non lo può fare, neanche l'iPhone le può mettere. L'HP un giorno potrebbe uscire fuori con un telefono fighissimo, perché per questo motivo qua. Altro dato, ma questo 2013, ma questo ce lo racconta John Senek nel 2026, che durante la Googleria a un certo punto Google comprò Motorola. Motorola è una ditta che prima fabbricava ascensori, prima ancora armi, ma prima fabbricava ascensori, poi fabbricava processori per la Apple per tantissimo tempo, i famosi PowerPC, era la Motorola che li faceva, e poi a un certo punto ha fabbricato chiaramente telefoni, tra cui un telefono celeberrimo che è lo StarTAC, quello ispirato a Star Trek, appunto, sì, beam me up, scat, cioè il telefonino che si apriva. È in questo momento la Motorola l'unica casa che fabbrica hardware utilizzabile per la telefonia americana, nel senso che nessun'altra, l'America non ha nessuno che fa hardware americano, se non la Motorola. Ed ecco che Google ha deciso di, a seconda dei punti di vista, di metterla in sicurezza piuttosto che di appropriarsene, eccetera, eccetera. Però in ogni caso compra Motorola. Dunque, alla domanda che telefono mi posso comprare, se compri un Motorola funziona? Cambia? Eh sì, ovvio che sì, l'hanno fatto loro, è molto più semplice. Nel 2017, ma giusto pur parlare, OAuth di Veritas Horizon si compra Yahoo. Questo potrebbe centrare poco, ma è un discorso un po' lungo. Però, giusto per simpatia, mi piace ricordare che Veritas Horizon è il nome completo di una ditta il cui nome vero in realtà è, cioè il nome vero, il cui nome pubblico è Verizon, che è una ditta che deriva da Nexus, che deriva poi da Bell, che deriva da AT&T e che prima ancora da Bell. Ma qui mi è stato detto tipo non cominciare da, dalla scissione della Bell, parla un attimo più. Comunque la OAuth, che vuol dire sermento, giuramento, ma in senso di fede, e curiosamente è una una sottoditta di una ditta che anche lei ha un nome abbastanza quasi bigotto, si è comprata Tumblr di recente, oltre a Yahoo. Yahoo ovviamente prima aveva comprato GeoCities, perciò tutto l'ambito di tutti quei siti che furono fatti manualmente nei decenni sono stati presi da Yahoo e poi da Verizon. Ha anche comprato l'Huffington Post, per dare un'idea, insomma. E questo è semplicemente per dire che le telco, la Verizon è forse l'espressione più forte di quelle che sono le telco adesso, hanno un interesse nell'ambito anche vagamente dei contenuti, non vogliono rimanere solamente delle entità che trasportano contenuti. E qui entriamo nel discorso di cosa, è arrivata Netflix e tutto quello che ne consegue. E una roba molto recente invece, come saprete, in questo momento in Canada è stata arrestata la figlia del fondatore della Huawei nel corso di una guerra dei dazi, probabilmente tra ecco magari Stati un Uniti. Huawei lo eviterei, ecco. In questo preciso momento dipende se vuoi installarci un sistema operativo che fabbricano gli americani, forse Huawei tra poco potrebbe non funzionare più. Crearti, chi lo sa. La Huawei ha origine dagli elementi militari cinesi, i motivi per cui siano stati arrestati è un discorso un po' lungo. Comunque è tutto in arresto. Sì, perché poi nel 2018, a maggio 2018, il Pentagono ha deciso di impedire fisicamente l'uso di Huawei nelle basi militari americane. Spero che questa conoscenza ti sia utile e mi auguro che tu la condivida.